Here are those verbs again, with each one followed by the formal you form of the present tense and then the I form. Per esempio, lei continua. You continue. Io continuo. I continue. Listen. Continuare. Lei continua. Io continuo. Girare. Lei gira. Io giro. Attraversare. Lei attraversa. Io attraverso. Prendere. Lei prende. Io prendo. Andare. Lei va. Io vado.